Allora, nuovi, sono videoregistratori, videocassette, sì, tutto pieno, poi, vabbè, lì al centro storico c'hanno un vizio, c'hanno, una volta che andavano via per dire quelle ragazze brasiliane, quelle che sono, ci lasciavano la televisione buttato lì, capito? Poi la parola di casa e te la buttava in strada, il televisore con il ricevitore, magari c'era un come si chiama, qualche attacco, ci buttavano tutto, non ne fregava niente. I barografi c'è Udo. C'è nel CD, ho la regia di quelli, mica li ho comprati, no? Nuovi. Cosa sto dicendo? C'è un bel ricordo di quella roba che ho trovato. E io la titolo. CD, ricevitori di quei digitali terrestri, DVD, di tutto ho trovato io. E c'era quelle due bigliette viste, quella all'angolo con via Milano, quelle le affittano sempre, capito? La gente di fuori, studentesse e cose del genere. Quindi parlavo in casa, allora c'era il cassonetto di fronte e ci buttava tutto. Addirittura c'era anche quella fame che forse c'era un medico, non lo so. E c'era quella Gigio, questo non mi ricordo il nome, come si chiama, che tutto appoggi nel cuore, gli devi agganciare un paio di cuffiette e ti ascolti il cuore, battito del cuore. Questo è allucinante. Quello è bello perché con quello puoi fare un microfono amplificato, si puoi costruire tranquillamente, capito? Ci metti quattro batterie dentro, una capsula, dalla parte all'uscita dove sono le cuffiette, la gancia direttamente all'ingresso di bassa frequenza del microfono normale, che ti fa un bel microfono amplificato a tavolo. Capa, ma tu non c'avevi un microfono modificato tipo quelli del supermercato? O sbaglio io? No, non l'ho ancora modificato, ce l'ho però quel microfono lì, ce l'ho qua a casa, ce l'ho. Mi manca avevo staccato la capsula, ci manca la capsula sua originale, ci manca il circuito, ce l'ho, compreso il cavetto, quello funziona a 24 volte quel microfono. C'è anche il bip, c'è quello, venga! Lo puoi modificare per qua? Ma devo fargli un coso per poterlo modificare. Non è così facile, no? Capito? I due pulsanti ce l'ha sopra, non ce l'ha nel fianchetto. Quindi devo fare una piastrina, metterci il pulsantino della portante, incollaglielo, mettere il pulsantino poi sopra, i due fili della capsula e poi il microfono è fatto, perché il cavetto l'ho già preparato, il cavetto con il pulsantino. E c'ho anche la capsula, c'ho larga, quella di telefono. L'ho provato l'altra volta nel 2009, funziona benissimo, funziona. Chiara la modulazione, anche c'è una buona modulazione, c'ha come cosa. L'unica cosa è infilarci questa cosa qui dentro e uno di questi giorni lo faccio con calma. Capa, sono cose che vogliono fare con calma. Sopra il tono c'è. Attenzione, attenzione! Che mai mi causa quel circuito, no? E quello va 24, saranno. Ora vi faccio le cose io, una piastrina, gli incollo il pulsantino della portante, mi faccio uscire appena il pezzettino del pulsantino della portante, mi metto un quadratino sopra. Quando schiacci, tac, si aggiusta giusto, capito? Adesso mi faccio il microfono da tavolo, è nuovo, il coso, è nuovo, c'è anche il coperchio, c'è tutto, ce l'ho qua a casa, l'ho trovato nella modestia quella, l'ho trovato. Capa, chi è che vuole entrare? Avanti. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, ciao Antonio, avanti Antonio. Sì, ciao, bello bene, ben sentito. Come va? Tutto bene, calmato il vento, meno male, dopo tutta la giornata, come dicevo, mio padre, no? Se sembra più tranquillo a questo, adesso. E dai, avanti a tu. Gabba gabba. Ehi Marino, buonasera, buonasera a te. Come va, bene? Tutto bene, tutto bene, non ci possiamo lamentare, intanto anche se ti lamenti è sempre quella, no? Allora il peggio va bene, intanto tu, andrà bene, meglio dai. Certo. Avevo mandato un video, non te l'hai visto la Bebe? Ehi, l'ho visto. Ho visto il video, mi sono fatto installare Facebook l'altro giorno da mia nipote, perché l'avevo staccato, capito? Ci ho rimesso e quindi poi vabbè, ha programmato il telefono che gli ho comprato a Simona, quello nuovo. Gli ho preso il Samsung 520S, quello lungo. Almeno c'è un bel telefono, e l'altro Samsung l'ho conservato, tanto è funzionato, c'è manco un graffio, l'ho conservato di riserva, non si sa mai, adesso l'unica cosa devo andare ai cinesi e procurarmi la custodia, se scatto a valla. No, per me c'è quello che io veramente non ho riscontrato problemi, niente, il Xiaomi Redmi. Però tutti questo che ho io, anche il 9, tutti quei modelli lì vanno con una bomba, vanno, non li posso dire nulla. Poi si chiama tu, e Xiaomi? Xiaomi Redmi. Ho capito. Ma anche filmato a tu, guarda le gocce avevi, la discoteca in casa tua? Non ti ho mandato un nuovo. Perché ieri stavo ascoltando, c'era gente, non potevo entrare. Sembra che c'era la discoteca in casa tua, no? Andiamo, cash. Ciao, bello, ben entrato, avanti. Ciao Mario, ciao Antonio. Mi ha appena rientrato, dai. Siamo giù a Plattamona. Ma c'è la gente, Luca? Sì, c'è la gente, la municipale ha messo un po' di multe. Anche a noi ha messo una multa. Ma la rotonda, la rotonda oppure pizze? La rotonda? Sì, la rotonda. Ok, là. Per il comune, per... perdendo un casino di soldi dai suoi pubblici a Sassari e così via. Avanti Antonio. Mi devo mandare un altro Mari. È arrivato adesso, adesso non lo guardo Antonio. Per tutti sono io. Uè, buonasera oggi. Buonasera. Appena contratto. Oia. Due giorni di contratto a Rodà. Oggi buonasera, ben entrato. Così, col campo oggi. Mi rugai, avanti, Antonio. Cazzo, col capo in giro, vedi. Sono tappezzicato nessuno, oggi. A tanta voce che stavo, Luca ha detto che ci stavano mettendo multe al nastro. Ma sono tutti impugnabili. Quindi mi vogliono dire, Luca, non li paga multa, che sono tutti impugnabili. Tu la tua settimana, la capo che Luca va. Luca. Ehi, ciao, Luci, e beh. Ciao Luca Micomì, io li abbiamo stimato, ma ci mettono molto a rosso, ho fatto la municipale lì, la lui ha portato la macchina, dei gelabili. Cazzo, sono appagato, sono appagato 5 giorni, praticamente 20-30 euro, là. Invece se supera i 5 giorni è 42, figlio di buona mamma, cazzo. Giovanotti erano me, allucinate, poi non c'era manco divieto né niente, infatti ha detto la mia compagna, magari non si poteva mettere, e vabbè pazienza, ma se avevo già butto, che butto, ma fra parte me l'avevo visto di Sirena. Ah, quella multa l'ho pagata, che io sono tutte bloccate su in prefettura, non ho pagato nessuno, l'ho pagato. Vabbè. Appunto, e beh Maria ti biazzi? Se ne biazzi, oioia, non devi scendere il palazzo, no tu? Ma in discoteca, avanti a te. Ehi, anzi là so che c'è Antonio è molto più forte di quello che avevo io, quello che ho usato io di notte. L'ho puntato in strada, ma dovevi vedere tutti i cosi, tutta la segnaletica si illuminava in pieno giorno, sembrava. Io dico solo una cosa, solo chissà parlami, chissà luminosa così, chi su foretto per le pone di nacco un paralla. Altro chi su foretto, eh. Avevo avuto uno di quell'asse che avevo visto in Israele, che di quell'asse verde, quelli gli appompano, che quelli che usavano per sparare, hai visto? Usavano il laser qua, per i proiettili di gomma. Quelli sono belli, quelli fanno un bel po' di metri. Se riesco a trovare una cinese me lo prendono quei laser vecchi, ma vecchi cinesi, che sono potenti. Infatti non approfitto io che mi stavo chiamando. Ciao Antonello, ciao Luca, ciao Antonio. Ciao anche adesso, ma adesso mi ricordo il nome, vabbè, quello di Pavottose, no? Benissimo, quello di per me. Allora, che tu? Ehi, capo, ciao Maricia, ci sentiamo le prossime. Un attimo, una bassa. Ehi, ciao Maricia, ci sentiamo, un attimo. Ok, ciao, Giro, scusa. Non c'è problema, ciao Maricia. Tanto tutto bene, ci sentiamo la prossima, ciao. Allora, oggi, quindi te ne sei andato io. In campo, adesso devo piazzare, l'antenna in campo devo piazzare, me l'ho chiesto avanti ieri, ma chi non ha antenna? Deve telefonare domani. Adesso vediamo com'è il camper, ma domani c'è la Turbo 2001, quella corta già. Adesso non so se, non l'ho visto ancora il camper, penso che io lo piazzo sopra, dove, sopra tettuccio magari. Come piazza fa la mia, però dobbiamo avere qualcosa per fargli fare massa. E di farlo piazzare una piazza in cosa, in ferro al limite, non lo so, se c'è la scaletta che fate da dietro, sale fino a su che è in acciaio, dovrebbe funzionare lo stesso, mettendo una piazzina in ferro, perché la scaletta è agganciata al ferro, quanto mi ricordo io. Una piastra in ferro, incollata sopra, lo fai il posto per il filo e cose, e funziona spesso. Sì, faccio pensare alla piazza in ferro, già c'è la salatrice lui, capito? Ci sta la cancelli, quindi a voi al ferro già ne ha, piazza in ferro già ne, dovrebbe averne. Io la faccio installare così, per non fargli bucare, il problema è il cavo, a farlo entrare, bisogna farlo entrare, o da sopra, o dal lato, non lo so, vediamo un po', dipende da dove vuole lui, perché pensando dalla parte del parafango, sembra una cosa un po' strana, cioè non rimane coperto. Allora, devo passare il capo per un po' nel televisore, che è già bucato, lo passare dietro un po' dentro, ma entra dentro il mobile e da lì devi passare dove vuoi. Ah, è vero, sì. Faccio così, sempre se c'è l'antenna del televisore, questo non te lo so dire, perché me l'ha detto avanti ieri, dice, mi serve un balapio per il camper, ma non è che mi abbia detto che come è fatto, come non fatto, se c'è l'antenna, bisogna avere... Se non c'è l'antenna bisogna che gliela installo, li installo tutti e due, si fa il foro, tanto ci sarà il foro originale della fabbrica, penso, no? No, ma poi tranquillo, l'antenna c'hanno tutti l'antenna, vai tranquillo. Ma la faccio fare, non mi faccio il capo l'antenna al televisore. Tanto lui il barattino non c'è un viaggio, quindi il televisore lo puoi già. Non può passare da lì, ti arriva, dopo c'è il passatore l'antenna, e da lì lo fa passare dove vuoi il campo, non è un problema. E io faccio così allora, io lo passo così, dato la parecchia ce l'ho. C'è un nuovo, io gli metto il microfono amplificato, glielo piazzo, adesso non so se lo vuole davanti o se lo vuole lì, all'interno, ma penso che userà l'interno, non penso si metta a modulare guidando. Per quel casino che c'è adesso, dei poliziotti, se ti vedono con un microfono in mano ti fanno nuovo, anche se l'apparato è omologato. Se non lo usiamo, in viaggio, capito? Allora da un campo all'altro usiamo, capito? Ma si la fuggi. Va bene, un attimo riprendo dopo, lasciamo un po' la voce, ciao ciao. Stavo aprendo la porta che era sulla tua, mio nipote. E già faccio così allora, Eugen. Quanto potete fare il tempo in cosa, Eugen? Di lì. Non c'hai... ci dovrebbe stare, no? Eugen. Prova! Ma Luca non c'è più. Vabbè, sei sparito, Luca. Ma non saprebbe cosa ha portato la multa. Vedete che va parcheggiato magari lì... Prima di andare in cosa, nella spiaggia, capito? Magari te soffetti, non lo so. Mi sembra che l'autore non si può più parcheggiare perché l'ho fatto un parcheggio, se non mi ricordo. Già sono un giorno che non ci sento lì. Cappa. Sono gentaglia, sono, per carità. Perché allora sai come sono fatti, il comune vuole fare incassare i soldi, non hai capito, quindi trovi questi stronzi che hanno assunto da poco, vogliono fare carriera, hai capito, quindi a un certo punto collerò una macchina, così piglio e cominciano a mettere le multe. Cazzo, niente randaggia, boh. Adesso stavo lamentando. Hai visto la televisione? La gente non deve andare a lavorare, né al bar né al ristorante. Hai capito? Se fai scolopina, se vedi tu in cittadinanza, così dice. Pia di nel culo tu e lavoro assalti che ci avete fatto fare per un anno. No, rete cittadinanza non viene dato il coso, la cassa integrazione. È una cosa molto brutta. Sia una cosa sia l'altra, non è la stessa cosa, no, perché quando lavori mica ti prendi 500 euro il reddito cittadinanza, per dire, o l'integrazione, mica ti prendi quel po' che l'elemosina. Cioè, quando lavori sono soldi, cioè, se ne rompi di 1000 euro. Allora. E avanti, UG. E ya. Quando è che mi porti il microfono amplificato a Luca? Quando vuoi te lo piazzo? Ci vorrei molto per farmi cosa. Che macchina c'hai? Ho un Mirand. Un Mirand piccolo. Molto piccola, sopra la casa. Micro piccolo? È uno simile al Polma che ho io, il ZX40, di quei barattini, nuovo modello. Ah, si può? Sì, che si può, grazie. No, è di quelli Midland Europa 5, piccolino, però guarda bene, mi servono micro, io ho il microfono amplificato, la Proxel. Io me mille, sono buono qua per non riesco a fare il contatto. Bisogna che porti il camper, cioè il camper, il baracchino, porti qua e poi te lo collego qua. Certo, io ho collegato il 2000 al coso, al ZX40, guarda che ne ha provato tre di microfoni in quel baracchino di film. Era un casino perché c'è sei, lo spirito a sé e a trovare i cavetti era un troiaio. Allora ho preso piano piano, finché l'ho trovato la... E ho attaccato lì con le lavette, è perfetto, esce di radio che è un bombo. Avanti chi voleva entrare. Sì, c'è Eugenio, Pomponio e Bombolo. Eugenio, qual è sempre il 48 XL Multi o l'hai cambiato? Quello ce l'ho portato a casa, non è un altro. Io ti ho promesso che quello che dovevo dare prima lo do a te, tu ultimo fai quello che vuoi, però questo qua può tornare a te. Ma ne ho tanti oggi, non so dove buttarli, non so dove metterli. Io questo ce l'ho incomodato in uso, che è bello perfetto. Nuovo, nuovo come me l'hai detto tu, è nuovo, nuovo, nuovo, come me l'hai detto tu. Il giorno che decido di darlo, deve tornare a te per forza. Casomai si dà a qualcuno che ha bisogno, dai. No, era per suggerire quello, se era quello lì, invece no, è un altro. Va bene, ciao, signori, chiudo che sono avanti e indietro. Vai, Antonello. Vabbè. Un attimino con l'induccia, ciao. A dopo allora. Marco, cosa stai mangiando, stai? Sempre mangiando il tuo Marco. La colazione l'ha fatta alle 5, adesso alle 8. Sto facendo la cena. Chiatta, è tutto quanto sballato, Uiuia. Oh, mamma. Chiappa. E che do? Cosa americano? Fai muoverai. L'americano, cioè? La caffettiera. Lo spiri. L'amplificatore. Lo spiri che è qua. È spento. L'altro il. Devo cambiare il finale. Però lo cambio il prossimo mese, non adesso, perché ho comprato il telefono a Simona. E quindi mi è rimasta la via. Adesso il prossimo mese gli cambio il finale che c'è da cambiare, la resistenza e così riutilizzo di nuovo il DV2001, quello transistor che c'ho qua la parte che ho comprato. Ma regista cosa? Devo cambiare il cavo? 500 watt sono 500 watt, mi carino mettere 1258, no? Sto usando 1258 ancora io. Devo cambiare per forza il cavo, se no rischio di bruciare il finale, non saranno. Adesso cambio il cavo, appena cambia il tempo, salgo 2 minuti sopra con la scaletta, metto 1213, me lo scendo dentro e poi cambio il finale. Ma dico, ma non è successo per quello, è successo perché hai sbagliato l'antenna o no? No, mi è successo perché c'era lo spezzone del rosetto, era in corto. E quando l'avevo modificato, ho messo le resistenze, funzionava, capito? L'antenna diretta funzionava. Addirittura ne avevo modificato due, il secondo invece come ho messo lo spezzone, fa il culo se era mezzo in corto e mi ha bruciato il grosso. Ho fatto 30 secondi, ho visto la potenza scendere da 500 scendere a 100. A Giubilani ha mollato tutto, devo fare un culo. Ho telefonato a Stefano che me l'ha mollato lui, per te. Il lineare me lo tengo io, gli ho detto. Perché Antonio? Perché gli ho detto, guarda, mi è successo questa coglionata, ho detto, coglione sono stato io, gli ho detto la verità. Io ho chiesto a me quanto ne voleva, ho preso e gli ho pagato. Ho detto, quando vengo a Sassa, mi ha detto, tiro i soldi così siamo a posto, il lineare lo tengo io. E già mi serve quel lineare, è transistor, quindi, non è a valvole, ed è perfetto. 30 euro non so niente, è un finale, un MRF 422. Ma voi è attaccato sotto accordatore quello? No, sotto accordatore, c'ha gli scatti, c'ha, fino a 6. Fa prima potenza, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Ho capito. Cioè, uno di stazionaria va bene. Sì, uno è uno, dei tre, massimo dei quattro. Io lo pilotavo con la valutata 7, 20 watt d'ingresso li davo a quel lineare, perché era modificato all'ingresso. Gli hanno messo la resistenza per pilotarlo con 20 watt. Se no non è così in origine. Infatti, in origine non è così, perché da uno all'altro erano due lineari. Il primo, quando ho usato l'altro lineare, dovevo abbassare il watt, ho messo 5 watt e funzionava benissimo, capito? Addirittura era senza coperchio quel lineare, l'avevo portato. Invece il secondo era tutto completo, coperchio, cosa del genere. So che era clara, la fa ancora uno spezzone e mi ha incasinato tutto, 1258. Avanti Uggi, genio, ma poi più, cazzarola, un peccato No, non è un peccato, perché devo fargli adesso la modifica dietro, gli metto devo fare due fori, mettergli due banane di quelle grosse, così nel caso me dovessero dare per riparare un lineare da cave da 24 volt, un 550 o un 750, non faccio altro che collegarglielo, l'alimentazione ce l'ho già all'interno, non faccio altro che usare il lineare esterno, hai capito? Gli adagio i cavetti e provo tranquillamente il lineare. Ho capito. Io faccio la modifica, capito? Per col pulsante, così faccio l'alimentazione esterna. Posso mettere anche il volto, metto volendo, ma non me ne frega niente. Esatto, questo qui da, come alimentazione da 24 volts da. E cazzo posso bilontare il 750, a me succhiami di ampere 750. C'è un bel alimentatore grosso e è perfetto. Quindi non me ne frega niente di 30 euro del finale. Ti faccio una modifica dietro, posso pilotare le lineare che voglio, per dire. Posso, se mi capita una seconda mano, per dire, di 4 volte di qualche camionista che non se ne fa niente, faccio altro che agganciarlo alle due barre dietro, tac, e uso quell'altro, per dire, 750. Posso usare il 550. Eppure con Antonio che ha valvole migliore. Ma la questione delle valvole sono i condensatori, non è venuta di qua. Capito, se lo compri nuovo che c'è condensatori nuovi va bene, ma se lo compri quel modello vecchio che c'è quei condensatori grandi, devi per forza smontarlo e cambiare i condensatori. Perché se ti saltano i condensatori si fa tutto, devi smontare tutto il lineare, hai capito, per arrivare ai condensatori. Tutto dove sono stato, avanti e dietro. È un bel macello. Infatti quello è il macello, capito? L'altro lineare è quello che c'ha le valvole, quello che stai dicendo tu. L'ho dato a Fabio, ho detto cambiami, come si chiama, il rivele, perché i condensatori meno male erano buoni. Invece l'altro che mi era rimasto, l'altro lineare, mi sono tolto le valvole, l'altro vecchio che avevo io, in 2001, e il resto della roba aveva fatto cosa? K2 e insieme alla 2 ne ha fatto uno di lineare. Già, bene, da. Valvole è un'altra cosa, la verità. Però le valvole, non se lo porta tutte, poi si esauriscono. Il transistor rimane sempre stabile. Ma dammi due secondi che sto leggendo una cosa che mi hanno mandato. E io fai pure. E allora, tu sei andato in Egitto? No, già sono qua. Che vuoi dire? Ti faccio un saluccio. Si sta bene lì a Porto Ovest, eh? Almeno c'è il freschetto, c'hai. Professore, c'è la capitale del mondo. Non la cambierete niente al mondo, non hai ripreso, siamo dopo voti. Ho conosciuto cosa di Bonottove, sì, io. Vabbè, a parte la buona di Mari Silvestro e quelli che gli altri CB. Ho conosciuto quello che avevo spanzato, che abitava di fronte a me, abitava quello. Vai a Luca. Eia. Ci siamo mesi. Luca Mura, una vita che siamo messi di fare, Luca. Ah, sì. Era esaurito quello, tutto esaurito era. Oh, che era fatto. Ma una cosa là, ma chi vuole rimane in quella fagia, allora... Chi vuole dire, prima lo vai in una paio di griglia. L'hanno controllato una volta che gli ho messo fuoco alla moto io, però... Perché lui in pratica... La sera verso le 7 c'avevo l'antenna installata nella finestra a piano terra, ha preso e me l'ha fregata, se l'ha venduta lì al circolo. Ho preso io, tanto lui non era ancora rientrato, verso le 10 e mezzo di 11, era mezzo cotto, ho preso e gli ho messo fuoco al serbatoio della moto e dietro, proprio parallelo a dove era parcheggiata la moto, c'era la cucina e la bombola, c'era, capito? E si è gaggato sotto, si è gaggato. Vabbè, cosa succede con quel giro lì, va bene. E c'è rimasto? Ma usa bigli tu? Sì, gliel'ho detto che ero io. Anzi, io non mi ha detto niente, l'ho detto. Mi ha detto, sei stato tu, mi ha detto Antonio. Ho detto sì. Lui mi chiamava Allello. Dice, per cosa hai fatto? Ma già lo sai, hai detto tu, non c'è bisogno di tu, io gli ho detto. E tu me l'hai fregato l'antenna, se me l'avessi chiesto, l'antenna della macchina, te l'avrei regalata. E invece me l'hai avuto il daggio, detto. E lì ha detto, non ci ho visto più, ho preso e ti ho messo, siccome la moto era la mia, te l'ho regalata io, ti ho preso e ti ho messo fuoco alla, a serbatoio. E me l'hai detto, servono la bombola del gas, mi ha detto lui, e a me non me ne frega niente, gli ho detto. E casa tua mica, casa mia, non l'ha compresa. Dice io per colpa tua, dice, sono sceso al ciclo, ho picchiato uno. Ah, detto, perché per quello che si è fatto picchiare, detto. Se ne frega, meglio detto. Luca, la guai giusto. Chiappa. Ragazzi, mi aveva duccato. Avete tu quanto grebato, cazzo, non ti innande. Io non ce n'ha bisogno, non era a quei livelli con me, no. Anzi, una volta mi sono sentito male, ha accompagnato lui a tutto suo corso, la verità, perché mi è arrivato questo panico forte, non ce l'ha messo manco con Nexotan. Dice, lei lo accompagno io, ma... mi ha accompagnato, è rimasto lì a pronto soccorso a aspettarmi, lì è rimasto, ha detto, detto Luca, detto, vai a casa, ha detto, a furtidini, gli ho detto, ma lei non ti posso lasciare solo, lui ha detto vattene a casa tranquillo, ha detto, con i piedi miei, non ti preoccupare, perché avevo la faccia interna e farmi vedere, capito, con lui, lui quel periodo lì era, si drogava spesso, si drogava, capito, e quindi avevo la faccia interna. Però in realtà abbiamo fatto compagnia e da quel giorno è giunto strano, detto, che mi abbia accompagnato all'ospedale. Questo è il minimo umore questo mese, e mica l'hanno crepato dopo una settimana. Capito. E allora già non ti accompagno io, non ti preoccupare. E dove mi devi accompagnare? Sotto dove mi devi accompagnare? Se hanno tutti i miei. Tranquillo, non è la prima volta che se mi sono sentito male ho chiamato l'ambulanza, pure sono andato direttamente in tram. Quando mi veniva il panico, ma allora soffrivo un bel di panico, adesso grazie a Dio non più. Sto meglio, capito? Non riuscivo a capire cosa diavolo era. Da che cosa l'ho avuto? Perché una notte alle 5 del mattino mi sono bevuto la Coca-Cola e poi verso le 8 e mezza, le 9 ho preso due caffè, lo sai. Da quel giorno non riuscivo a capire cosa andavo là, mi sentivo proprio il cuore e poi più fa così e più ti viene la paura, capito, ti caghi. Allora sono andato da tanto scorso, non mi hanno cavato piedi, non sappiamo cosa c'ha lì. C'era una pressione quasi a 200, ce l'avevo, immediatamente mi sarei buttato dentro. Mi ha fatto poco il giro, cardiologia, giù, su, da una parte all'altra. Cattolo! Ehi, chi è? Chi è che chiama? Ehi, avanti, chi è? Ah, questo ha messo lo squelch, ha messo qui. Vedrà che vedi la portata salire e non lo senti a noi. Può essere. Cappa. E sciuga. Oiuia. Ma stavo dicendo che l'hanno cazzato oggi. Sì, due volte l'ha preso. Una volta l'ha preso l'aperto in pancia, si vedevano le budella fuori, così mi hanno raccontato. La seconda, e lui picchiava ancora me, a caldo. Dopodiché il secondo offendente, quello che l'ha crepato, era alle palle. Si è sceso come un salame, si è sceso. Penso che era una bestia, questo era. Era più fatto di lui, lo conoscevo questo tipo qua, c'è il night, capito, mi sembra che c'è la cosa, no? C'era una macchina bassa, tipo sportiva. Aveva il night, dice, quando andava al bar picchiava la fidanzata, tu immagini, ma certi schiaffi che gli dava davanti a tutti, e nessuno gli diceva nulla. Figurati tu, era ho mezzo cotto, l'ho sempre fatto questo tipo qui, arrivava a una certa ora, era già carburato verso le 9 di 10 di sera. Allora ha trovato il suo, va? Ah beh, vabbè, già ha esercito la moglie adesso lui, quindi i figli e la famiglia di Luca. Lui già si è fidanzato dopo un mese, dopo due giorni che lui era morto, lei andava al bar con la sorella a bere, la moglie. Arrivo, spegni il baracchino, un evoco. Buonasera, Barrado. Ciao, ciao a tutti. Caffa, buonasera, Tino. Hai capito ancora, eh? Ancora è giorno, così no. Prendo anche fuoco. Sì, hanno. Tu mi, se vuoi denunciare a me, denunci la moto, già la mia, i documenti ce li ho io, quindi gli posso dire fuoco la moto mia, ho la moto noia, gli ho detto. Gli ha levato lo scuba, l'ha levato, quello rosso. Ti ricordo che usavo quella moto lì tanto tempo fa, Latino, ci volevo quella in giro. Quindi sto cercando una piccolina, una scooterina, sto cercando. Nessuno conoscete che ha. Non sai che non ho più visto scooter 50 in giro io. Una volta le rubavano, facevano la... Adesso non rubavano manco più quelli. Ora ci sono quelle... Vabbè, fanno 30-40 all'ora neanche. Ma ci sono quelle biciclette elettriche, come si chiama? L'UFO. Quelle che vendono a Polo Torres. Mi sa va bene 1200 euro, però è bello, è come lo scooter. Ah, come mai spendo 1200 euro per una moto, per una bicicletta così? No, mi interessa così, da passeggio, quando ne voglio, la prendo e faccio un giretto. È una moto normale, ma se va la patente mica si piglia chissà. Ma per il tuo scooter 50 e pagare 500 euro l'assicurazione non conviene manco molto a nessuno, mica lo sai, se non sarebbero stati in giro questo scooter, non l'ho più visto. Oramai chi c'ha lo scooter o se l'ha venduto, penso che l'abbia abbandonato, perché si paga troppo l'assicurazione. Invece quel tipo di bicicletta non c'è bisogno né di casco, né di assicurazione, né di bollo. Ma che l'ha detto? Ma chi se ne frega, tanto non la faccio assicurazione. Ma poi non è neanche così, perché la trovi a poco prezzo. Non lo so, Antonio, non lo so quello, Qui bisogna vedere, credo che paghi meno con le moto tipo 125, 250, 400 che quelle da 50. Aiuto, dai, fate quadretti, aiuto, dai, su. Grazie, Lu, bella quella ventola, fa un po' bene. E Lucy, andava bene. Va bene, telefono a posto, sì? No, ancora non è rientrato mio figlio, quindi quando me l'ha lasciato a me, quando viene qua lo configurerà, non lo so. È un po' lentino mi sembra, non so da cosa possa dipendere, se è aggiornato o meno. Come ti ho detto, io l'ho sistemato per via come secondo telefono, ma non l'ho manco provato, Non lo so, vedi un po', e mi fai sapere se... Ripeto, il telefono, come ti ho detto, è caduto dal secondo piano. Io l'unica cosa che ho fatto è cambiato quello e altri pezzi, da. La capotoccamera che non andava. Se lo usava bio, ma che puntata non avevo. Poi ti do risposta quando lo configurerà, perché ancora non è arrivato. Che ragazzi? Andabex. Ma riprendi Antonio. C'era un telefono, Tino, te lo ricordi? Pare che era un Ericsson. C'aveva le volo con gomma, tu lo buttavi a seconda, il terzo piano mi balzava. E non si faceva nulla. Quello me l'avevo fregato a Porto Torres, me l'avevo fregato, i cibi di Porto Torres, ero sceso lì alla sera, avevo appoggiato sopra il tavolo con la fetta che avevo già, me lo sono dimenticato, quando sono andato giù, ho detto mi sono dimenticato il telefono, già pizzicato me la viene. Cosa che capita? E quello era bellino, mi rimbalzava, però era, cioè, non è come quelli che ci sono adesso, dato per dire, se butti l'LG, quello che c'ho io, gli fai fare il volo a secondo tempo, ma con un pezzo di tu. Ma no, quello che ho comprato uno io, Cat si chiamava, è durato 3 giorni, perché era indistruttibile. Figurati, no, già avevo telefono io, c'ho, come si chiama la... come si chiama adesso? Con quell'arancione a far culo, ce l'ho ancora, funziona benissimo, funziona. C'è un Windows sotto, c'è. Non è tanto grande, però va bene come telefono. Non lo so, io l'ho tirato a terra e si è pronto un attimo. Anche le mie leggine, non è che io l'abbia tirato a terra. È caduto dal comodino, la verità, ma neanche 60 centimetri di me ha fatto. Si è infilato il vetro. Aiuto, bene di dire il culo. Avevo pagato, mi sembra intorno ai 98 euro al Conad. E me lo sono tenuto così com'era, la biglietta di Napoli. Poi c'avevo il K4 dell'LG, quasi tutti li ho girati e cose dell'LG. Adesso l'ultimo che ho comprato è cosa, me? I 520 del S della Samsung per a Simona l'altro giorno, era l'offerta, 159 euro. Telefono. E bello. Mi siamo scesi con la 25 a farci un giretto lì alla rotonda. Cazzo, abbiamo messo la macchina perché è stato più lontano, non potevi andare. Tipo portatore se non potevi scendere, oppure sorso. E stanno in buco la multa. Ti ho visto in diretta, perché la multa? Di là, non veniva divieto di niente. Perché adesso la paghi subito è 30 euro, se no è 42. Ehi vabbè, dai, dovevi fare, pagata, boh. Infatti la compagna mia non le lascia indietro, le paga. Ma per cosa? Perché vi siete parcheggiati o cosa? Perché siamo parcheggiati. C'ho buco, beh. La segnaletica, l'hai guardata se c'è il divieto? No, però dicono non si può mettere la macchina lì. Per quale motivo? Che cartelli ci sono? Ci sono quelle segnaletica. Bisogna vedere un po'. Cazzo, allucinante. Una volta, lo stesso, una volta, qualche anno fa, intorno alle 1:30 così, sono passato, mi ha fatto via l'ombretto, poi ho girato a destra, più avanti del moderno, e le cose erano aperto il varco. Cazzo, pure anch'io ho visticato la multa. C'è il varco aperto, non ti pone vannuta. Senta TL, e pure te ne posso la multa. E stanno un bagata. Ma lì che c'era scritto fuori, varco aperto? Sì, sì. C'era, però non potevi contestare, ormai. Tu pensi al cugino di Marina e Vigio Urbano. No, cazzo, allora glielo avrei detto. Guarda che il varco era aperto, non per le scatole. Antropia. O magari è scattato dopo l'orario. Bisogna vedere che io ora è successo. Adesso è sempre aperto. E di là è, di cosa ne so? Mica era aperto, io sono entrato per non fare tutto il giro. È un casino, eh. Guardati, è un casino, devi stare un bratto, dove stai? Non due occhi, no, 40 occhi. No, devi sapere gli orari, devi sapere, perché magari ti è scattato proprio in quel momento. Bastardica. Però adesso ti muovi fa più nuda perché è aperto. Lo so, grazie al sindaco. Vabbè. Oh, via. Poi c'è un pompolo vicino a casa tua, eh. Non potevi chiamarmi, sarebbe io. Ci avevo bevuto qualcosa. Adesso mi danno male, c'è il bar aperto, c'è. Meno male. Solo che martedì devo andare a farmi la puntura, a me non tocco nulla. Non sai che ci rimango secco, cazzo. E poi mi tocca regalare tutti i cibi, cazzo. No, ero da dentista, Antone. Ah, da dentista, eri. Ho capito. Quando vuoi passare, basta che chiami e ci beviamo una cosa qui al bar, alla Kuwait, già non c'è problema. Adesso, se mi fa questa cosa qui martedì, rimango 3 giorni a casa, credo che posso manco muovere, perché fa un bel male, cazzo. Dopo che ti fa la puntura del braccio, stai 3 giorni cancarato, c'è Simona che 3 giorni fa male le gambe, le braccia, lì tu hai iniziato a gonfiare le mani. Oh, e Fabio che fine ha fatto? Chi? Fabio. Boh, sono un po' vedere che non lo vedo, la verità. Avevo mandato un messaggio per il lineare. Mi ha detto che stava sistemando il laboratorio. Dice, aspetta un po', dice che sistemo il laboratorio e così poi te lo faccio e te lo ho detto. Però non l'ho più visto. la verità. Una volta al lavoro qua a casa, sono chiamato, ma ancora non si vuole più sentire, boh. Chiamalo a vedere, se ti fa un lavoro lì a casa, chiamalo, ci avverrà, qualcosa mi ha preso, mi ci siamo problemi. Se è Urbia, i problemi ci sono, perché mi cazzo è Urbia per venire qua. No, non so se è a Urbia, lo sai che c'è la madre lui anche, quindi qua sta a sei. Quindi penso che lo lasci la madre da sola, no? Senz'altro qualche giorno sarà a Sassari, devo chiamarlo magari stasera e glielo chiedi se questa settimana, quando è libero questa settimana qui, magari se c'ha una giornata libera o due ti fa fare il lavoro, non ci vuole molto a chiedere. Registrato. Non è che ci vuole poco, non ci vuole molto a chiedere, è che se tu chiami e non risponde vuol dire che non vuoi continuare a venire. Comunque io l'ho chiamato, già il numero ce l'ha, quindi ci vuole poco a rispondere, oppure sì o per no. Vabbè, chiusa parentesi, avanti il break. Ciao Antonello, ciao Tino, ma stai parlando di Fabio Mazza? Ehi, ciao Antonello. E guarda che a Sassari sta lavorando e lo sa che Antonello dove sto io, ogni giorno lì, Pedagneta, dove c'è il braccetto di forse un po' più giù sulla destra, roba usata, lui è lì. Capito, però noi dobbiamo stare lì a pedinare la gente, io ti chiamo, se tu hai piacere di rispondermi perché hai da finire un lavoro è un conto, se il lavoro non lo vuoi finire... quelli sono problemi tuoi, non vuol dire che mi organizzerò a fare un'altra chiamata a un'altra persona, capito? Non è che non ci vuole più così tanto. E infatti, come anche rispondere, dire sotto le impegnate, lui è stato acceso sul furgone blu, a prendere dei mobili, portare lì e vedere il piazzato, eccetera, capito, con un altro. Io ogni volta che passo lì, lo vedo lì, lo saluto, ciccia. Vabbè, io sapevo che ero rimasto indietro allora, perché lui era Urbia, quindi niente. Va bene, c'era da controllare un condizionatore dei miei, perché sono in cantina, sono giù una tavernetta e insomma non funziona a caldo e quindi volevo farglielo controllare, giusto appunto. Ecco. Comunque, ripeto, ne conosco anch'io perché sono bravo, quindi, per guardare il condizionatore, pure, non vedo. Andò bene, stavo soltanto, faccio Fabio, trancia, Fabio Mazza. E molte volte non risponde, hai ragione, non risponde, neanche con me rispondeva. Quindi, e poi, lo posto dice che è Urbia, ma poi Urbia dall'anno scorso, quando lo diceva, poi si è pensato perché lavora lì, lui praticamente la paura per la poetana, anche la succia e la compagna sua. Andrà bene, vabbè. A me mi dispiace perché è un amico, però comportarsi così con gli amici non va bene. Avanti, Popuzzi. Ehi, ciao, ti hai sentito, salutoni. Come va? Fresco, ne hai? Ma io sto bene, guarda. Bene da una parte, temperatura eccetera eccetera, ma leggermente ancora, vedo dove sta, se le ferite fanno ancora male. Mi rompere i balucci, domani faccio l'altra medicazione. Io dico la Torresa, un'altra settimana posso entrare per lavorare con gli amici, perché se rimangono ancora i punti sono quelli assoffati che si disintegrano. Se mi stanno bene mi dice sì, è bene, se no si rabbia a luci, mi è morto anche due chili di malattia, sono figlia. Io ne ho le balle piene però. Non so, stare in casa non è che sia... non è bello, capito? Io adesso sto sempre appresso a Simona perché ha fatto il vaccino e gli fanno male le braccia, le gambe, e quindi devo accompagnarla in bagno, lì, non sa che cara, capito? Le ha gonfiato le mani, le braccia, poi... l'ha pigliata un pochettino male questo vaccino qua. Adesso martedì devo farlo io, speriamo bene. Non ha fatto l'accidente, l'ha bevuto la birra, si è bevuto quando è entrato a casa. Però mi ha detto Giovanna, dice, resti... Ma non capo, che fai? Però gli altri dice, diciamo, un po' di dolori, non molti. Già è bello, già sopporta. il capo no, io vaccino, ma ho mandato il messaggio il primo maggio, non ci sono andato. Chiamato la dottoressa, ma queste condizioni che sono io adesso, vado a fare il vaccino, e se non ci vado, non succede niente, ce la becchiamo, e vabbè, già via dolci. Oh, Tino, ascolta, non è che siete qualcuno che sta andando a qualche macchina, così, andante, perché io sono a pizzo rimasto. A ottobre mi sono comprato una nuova di zecca, in contanti, perché ho il TFR mio, perché io sentivo le fate pensione, capito? E a me fare due volte il passaggio, vorrei una macchina più andante e spendere soldi, non le voglio spendere molti, perché per poi comprare un'altra e quella buttarla via, poi mi dispiace. Se siete qualche d'uno, se una macchina andante, per questi mesi qua, a me ha fatto un po' di spesa, o giro un po'. Chiama Walter, che non so che generale più andante, come la stai cercando tu, se non sbaglio è una 206 rossa, prova a chiedergliela. Cappa, dopo lo telefono allora. Mi ha minacciato pure a piedi tutto, l'ho già portata da Marcito, a Rotamare, sono stato a posto. E tu pensa, ho chiamato un tassì, cazzo, con la ferita fresca, piano piano, sto piccando. 10 minuti sono lì, cazzo, 25 minuti non si vedeva. Sì, me la sono fatta a piedi fino a Sassari, che è da macchi. Scusate un attimo, mi devo rompere la radio, riprendo subito, devo fare il latte al bambino. Ok, d'accordo. Avanti Antonio. Campa. Chi si dà sì, mamma mia, che andò da Bigliani. Cioè, abbiamo un bel ci mettono. Sì, ma non ho capito perché lo fanno a tu. Perché loro, se vengono subito, è la tariffa quella che parte, si prende e poi ti accompagna. Se invece si fa un giro dell'Angolona e viene più tardi, la tariffa è più alta a macchi. No, perché c'è il tassametro. No, che è proprio guascio, Ma ho capito, ma lui la fa partire quando viene da me, capito? Si fa tre giri, quello cammina sempre, arriva da me, anziché essere esempio, così posso dire. 4-5 euro, no, parte già da 12-13 euro, si abbiglia a luci. Fate me la giocata a piedi, buonanotte. Allora, poi alla fin fine essere puntuale, cavolo, manco puntuale. Vabbè, perché. Cosa mi dica? Avanti, popò. Ehi, mi sono pigliato matte di tassio. Fino alla tua camera, poi lo faccio divenire a ritorno. Riesco a camminare. Quando sei seduto non ti accorgi di niente. Per 10-15 minuti, ma dopo. Cazzo lui. Ui, ui. Andiamo bene, mi ha detto un martedì o giovedì, dice Antonio, te lo faccio, va bene, io, di sera poi mi immagina di due. Cioè, sono quattro duri, che fanno male le braccia, ha portato Giampiero, cazzo, una ricca, mamma mia, cazzo. Non va bene portare una persona in calottina in salita via Carlo Felice, no, ma sembrava che stavo portando, cazzo, con la carriola, non ti posso dire, quattro sacchi di cemento, cazzo. Io, ripeto, a parte che l'ho lasciato perché stavo male, ma non me ne forza che non me ne ha fatto nulla, manco per la camera. Ma io lo fallo per forza, perché se mi dovessero chiamare all'ufficio di collocamento e dico guarda, c'è questo lavoro qui eccetera eccetera, fatto il vaccino, se dico no, invece non l'ho fatto, beh allora capito, te la togliamo di tua cittadinanza, quello è, hai capito cos'è il problema, già l'hai visto che sta lamentando adesso, perché prima c'erano i camerini, allora carriera, non c'era posto per nessuno, adesso si sono accorti per fare tutti questi stati che fanno, mese sì, un mese no, e poi cassa integrazione, cosa del genere, la gente non ci sta più andando, ci preferisco prendermi i 700 euro di ogni mese e sono tranquillo, quando ci sarà, sarà tutto stabilizzato, per dire che questa pandemia non ci sarà più, allora se si cerca il posto di lavoro immediatamente, capito? Perché questa la gente si è fatta furba, non si fa più inculare, cioè per dire mi assumi oggi e mi fai lavorare una settimana sì e un mese no, a un certo punto fanno bene, capito? Ma non posso prendere la gente per il collo, non fai il vaccino, ti do il diritto di cittadinanza. Guarda che è una cosa assurda quello che stai dicendo, Antonello. Così e così, se non ti fai il vaccino non puoi lavorare, perché non puoi farlo, capito? Non puoi lavorare, purtroppo è così. Tutti lo stanno facendo, compresi tassisti e cose del genere, per legge, cazzo, purtroppo è così. Se vuoi travagliare, devi fare il vaccino perché sei a contatto con la gente. Capito? Così ho fatto avviso dall'Apocalipsi. Mi ha chiesto se avevo fatto il vaccino, non sono parente, mi hanno chiamato quando io ero appena uscito all'ospedale, quindi stavo anche male, e infatti ho chiamato la dottoressa, mi ha detto, intanto non succede niente, la richiameranno, ok, e quindi non mi ha detto nulla. E a me se mi richiamo le manderà a fanculo, dico fatelo una testa voi il vaccino, se abbia luci. Avanti a tu. Capa, io adesso mi devo informare e vado e me lo faccio. Io non ne posso, è abbia luci. Tanto, se voglio la pensione quasi, quindi non me la faccio nulla. Ehi capa, purtroppo io sono a contatto con la gente, è un casino, Beh, anche il mio lavoro è a contatto con la gente, capito? Quindi, non metto da nessuno e non ne posso. Capa, il meteo, temperature, quando arriverà il caldo, ultimi aggiornamenti. Domani alle parti della Puglia a 30 gradi. Noi arriviamo a 29, andare. Vediamo. Poi ci abbiamo di nuovo a giugno, a luglio se non mi sbaglio, è già prenotato caldo, un bel caldo, poi di colpo arrivano gli acquazzoni, come è successo a Sorso parecchi anni fa, che si è bruciato tra i bari, dal cimitero. E le bare passeggiano al corso. Arrivano le bombe d'acqua, arrivano giugno e luglio, l'avevo già detto, capito? Già la pigliamo buona, già. Se ci arriva in piena estate una bella passata d'acqua, quando c'è la gente a Pattamona, si vede gente fuggendo. E basta con questa acqua. E quando poi sta ovviamente che non piove più, arriva l'aria fredda, la ragazza, c'è il casino, bombe d'acqua, nato, fa carità che, ma com'è che Sassari è una posizione che bombe d'acqua non è fatta di nulla? E non ti credo, no? Lì a Pedalieda, quando arriva un bombo d'acqua è una cosa allucinante. Lì in quella zona lì, scarica, spesso lì scarica, quando arriva la roba all'Alghero, preparati, che sta arrivando acqua. Oppure da una parte di Sorso e Sino, come è successo una volta, che a noi meno male ci sono sciolato, per fortuna. Quando poi ho visto i filmati, come si è fatto una cosa del genere, di qua dove sono io, l'avevo preso il gommone, sarei sceso fino al centro storico, in piazza Castello sarei sceso. A Vitti ha fatto veramente casino per l'acqua, c'è anche il filmato che è una cosa spaventosa. Piazzate al limite bomba d'acqua, piazza Sant'Antonio, la stazione, quelle zone lì. Ma ripeto, io sono in zona tranquilla, ma beh, può fare tutte le bombe e poi tutti. Già sei in alto, lì non ti tocca nessuno, non ti preoccupare, ma con qua. Una volta è successo, quando avevo fatto il primo di stagione per entrare nelle garage, c'erano le foglie intasate. Lì dove la tira va la prendere la moto e c'erano 20 cm di acqua di merda dentro i garage. Un cazzo, sono uscito e morto. Chi è che vuole entrare? Mi va a porta questa qua, cara. Chi è che vuole entrare? Sentiva qualcuno. E provocazione arriva forte, arriva a tu. Ah, il capo. Sono qui, sono entrato. Riprendi, sarà tutto tu. Sì, non ci avevo accorto però, non vero? A fare il latte al bimbo. Reghiccio. Ma propagazione chi c'aveva? Qualcuno di qualche paese, boh? Propagazione, segnale 5 arriva qua adesso. Magari ci sentono come noi sentiamo loro. Io che Santiago 7. Ti vai a un piccione, che Santiago 5 anche qua. E vai passo. Vabbè dai, continuate voi, che vi metto bene in posizione nel letto. Purtroppo devo mettere le due ferite, cazzo, su un materasso, porca eva, sto male. Questa gli mi hanno fatto la pancia, cazzo, vaffanculo, quello non ho niente, che il taglio più grande. Dietro lo schiena due tagliusti, mi fate un cimare, cazzo. Vabbè, vi ascolto, dai, buon proseguo. Ciao Tino, ciao Tunio. E ciao Pontucci. Ascoltiamo le prossime, vi ascolto ben volentieri. Ciao ciao, ripetiti.